100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. A che cosa servono gli stress test sulle banche? Dopo l'ennesimo scandalo bancario internazionale, quello cosiddetto del Forex, cioè del mercato valutario, un mercato da 5.000 miliardi di dollari al giorno, è quanto si chiede l'opinione pubblica europea davanti ai mercati finanziari. Per mesi abbiamo assistito e aspettato all'esito della verifica sullo stato patrimoniale e contabile delle grandi banche, sulla qualità dei loro prestiti alle famiglie e alle imprese, per poi vedere che cosa? Che quella fiducia che doveva tornare con i test e con le verifiche sulla salute delle banche viene vanificata completamente dalle notizie che ci raccontano di nuovi scandali e manipolazioni dei mercati. Questa volta si tratta essenzialmente di banche inglesi, le più importanti banche inglesi, e di banche americane, quelle tra l'altro che proprio dagli stress test erano uscite ed emerse come le più forti. Che cosa significa, insomma? Significa che mentre le autorità di vigilanza si concentrano sempre di più su come le banche prestano i soldi ai loro clienti, poco o nulla è stato fatto per verificare la correttezza dei loro comportamenti proprio nei confronti non solo del mercato ma dei loro clienti. Quando parliamo di mercato valutario parliamo di che cosa? Di quanto si paga con la carta di credito quando si va all'estero? Di quanto ci si perde in una truffa se ad essere manipolati sono fondi magari di investimento che proprio sulle valute hanno basato il loro rendimento? Se deve cambiare qualcosa in Europa è ora di cominciare proprio da qua, non tanto dall'attivo dalle banche ma dal loro comportamento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Sugli accordi fiscali tra il Lussemburgo e moltissime imprese, tra cui banche e multinazionali, si è scatenata una bufera che ha messo nel mirino il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, che del Lussemburgo è stato per molti anni ministro delle finanze e addirittura premier. Juncker si è difeso ieri davanti al Parlamento europeo dall'accusa di aver favorito gli evasori. Anzi, Juncker ieri ha scelto di passare al contrattacco, sostenendo che questi accordi fiscali, grazie ai quali le multinazionali finiscono per pagare tasse molto molto basse sui profitti, quasi mai più dell'1 o del 2%, non sono affatto una peculiarità del Lussemburgo, ma sono diffusi anche in molti altri paesi europei. È una giustificazione che lascia davvero senza parole e anzi che diventa un boomerang per l'Europa, direi una toppa peggiore del buco, perché a questo punto qualcuno ci dovrà spiegare come sia possibile che le multinazionali non paghino praticamente tasse sui loro profitti, mentre i cittadini normali e le imprese meno spregiudicate ne siano letteralmente sommersi. E scoprire che questo non accade solo in Lussemburgo, ma che anche altri molti paesi europei hanno lo stesso regime, rende la cosa ancora più imbarazzante. C'è chi deve pagare le tasse e chi invece le può legalmente evitare. Però facciamo attenzione, perché qui non c'è in ballo solo il destino di qualche leader europeo. Qui c'è in ballo qualcosa di immensamente più importante, come il destino e la credibilità dell'Europa stessa verso tutti i cittadini.